30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Riduzione delle piattaforme da 11 a 7, di cui 3 prodotte da Fiat. Risparmi per 2,9 miliardi di dollari entro il 2014. Chrysler torna nel mese di settembre in pareggio operativo e punta all'utile operativo nel 2010, all'utile netto nell'anno successivo. La Fiat targata Marchionne lancia dunque una nuova sfida e prevede un futuro sempre più comune tra l'azienda torinese e quella del Michigan. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. La notizia di oggi ci porta dunque nel Michigan, lo stato americano che si può ben dire ha messo su quattro ruote il Novecento e dove ancora oggi troviamo tre città che rappresentano l'automobile, la sua storia e dove in molti si crede che debba anche essere scritta alcune delle pagine importanti del futuro dell'automobile. Michigan dunque è un triangolo isoscele, immaginiamo, che parte da Detroit, quartiere generale di General Motors, si muove a est fino a Dearborn, dove sorge la Glass House, così si chiama il quartier generale di Ford, e infine a nord fino a Auburn Hills, capitale dal 1925 di un costruttore automobilistico che rispondeva al nome di Walter Percy Chrysler. A Auburn Hills raggiungiamo Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque Andrea, Auburn Hills, capitale, una delle tre capitali di questa zona dell'automobile. Tu in questi giorni sei stato a seguire una pagina che, come dire, promette di essere densa e importante della storia automobilistica italiana e non solamente. Sì, c'è stata la presentazione ufficiale da parte di Sergio Marchionne del piano prodotti e del piano finanziario 2010-2014 della nuova Chrysler, quella emersa dalla bancarotta quest'estate, quella che vede la Fiat attualmente azionista con il 20%, il governo americano con un 9% e una forte presenza anche nell'azionariato dei sindacati che hanno accettato di convertire in azioni parte dei loro crediti pensionistici. Dopo alcuni mesi di lavoro molto intenso, Marchionne e la sua squadra, una squadra in cui gli italiani sono un numero molto ridotto, una squadra che quindi si basa prevalentemente su comunque manager già nella Chrysler, hanno partorito questo piano che è stato presentato mercoledì in una maratona di 8 ore di appunto slide, interventi, domande e risposte, presentazioni, che non è dissimile da quella che Marchionne aveva messo in scena nel 2006 al Lingotto per quanto riguarda il piano Fiat. Gli americani sono stati sicuramente più sorpresi perché non è una cosa usuale, noi italiani un pochettino meno. I dati essenziali li hai ricordati tu, poi appunto possiamo entrare nel dettaglio di quella che è la sostanza della cosa, di quello che è l'aspetto un pochettino più sorprendente degli annunci di ieri. Diciamo che le due sorprese fondamentali sono state: uno, che a detta di Marchionne la Chrysler è già inutile, nel senso che a livello operativo ha chiuso il settembre 2009 in pareggio, e la seconda è appunto questa scommessa, di cui si aveva qualche sentore ma non in maniera così rilevante, su una quasi totale integrazione di Fiat con Chrysler. Sorpresa e scommessa, non dimentichiamo quello che accadeva solamente pochi mesi fa. And today, after consulting with my auto task force, I can report that the necessary steps have been taken to give one of America's most storied automakers, Chrysler, a new lease on life. So, today, I am pleased to announce that Chrysler and Fiat have formed a partnership that has a strong chance of success. Questo era il presidente degli Stati Uniti che il 30 aprile 2009 interveniva e diceva: certo, sono felice di annunciarvi questo accordo, ma insomma felice si fa per dire sulle macerie di un sistema automobilistico. Beh certo, la Chrysler soprattutto, per rimanere al nostro caso, era ed è tuttora in condizioni molto difficili, anche basta guardare le slide presentate ieri. Quest'anno la Chrysler venderà 1,3 milioni di automobili contro i 2 milioni del 2008. Ha pesato la crisi del mercato americano che ha colpito un po' tutti, ha pesato il fatto che Chrysler è presente solo qui e non ha basi all'estero che potessero compensare questo calo, Ma ha pesato anche il passaggio per la bancarotta. Gli stabilimenti della Chrysler sono rimasti chiusi per un paio di mesi, il riavvio successivo è stato comprensibilmente difficile e sicuramente il consumatore americano, per il quale, presso il quale già il marchio Chrysler non aveva un'immagine elevatissima, ha sicuramente subito un contraccolpo dal passaggio per tutta la procedura, in cui a un certo punto, ricordiamo, per Chrysler ma anche per la stessa General Motors non si sapeva se e in quali condizioni le aziende sarebbero uscite da questa procedura cosiddetta di Chapter 11, quindi un fallimento pilotato. Quindi per tutti questi motivi appunto Chrysler è tuttora messa male, nonostante, come abbiamo detto, sia tornata al pareggio, dice Marchionne, grazie a una cura di taglio dei costi molto rigorosa che era stata effettuata già dalla precedente gestione e che è proseguita con il passaggio per il Chapter 11, che ricordiamo negli Stati Uniti permette per esempio di rinegoziare tutti i contratti con i fornitori e tutti i contratti anche sindacali, quindi Chrysler ha adesso una base di costo più allineata con quella dei concorrenti, per esempio giapponesi, che producono negli Stati Uniti. Tutto questo rientra appunto nei fattori positivi che hanno consentito a Marchionne di annunciare un piano relativamente ambizioso e che soprattutto hanno indotto Marchionne a scegliere in pratica Chrysler come base di progettazione e anche di produzione per tutte le auto del gruppo Fiat medio-grandi a partire dai prossimi anni. Ecco, questo è sicuramente un punto di svolta su cui ti chiederò di tornare tra un momento. Prima volevo continuare un po' un percorso anche di date. Questa ci porta al 21 maggio, naturalmente, del 2009, con un ulteriore annuncio di cui vorrei chiederti lumi. Chrysler announced Robert Kidder, 64 years old, will take over as chairman from Robert Nardelli once Chrysler emerges from bankruptcy. Kidder is the former chairman. Robert Kidder, 64 anni, chairman di Chrysler. Bene, ci aiuti a capire, a ricostruire qual è la natura dei rapporti tra Fiat e Chrysler? Beh, appunto, Fiat è azionista al 20%. Kidder è stato nominato presidente dal governo americano, che come abbiamo detto ha una quota inferiore, pari al 9%, ed è un po' il garante del fatto che non solo della quota fisicamente in mano al governo, ma anche del fatto che i fondi che il governo americano ha prestato alla Chrysler, complessivamente 9 miliardi di dollari tra la vecchia Chrysler e la nuova Chrysler, saranno ben spesi e si spera verranno restituiti in tempo. Mercoledì nella sua presentazione Sergio Marchionne ha assicurato che se tutto va secondo le linee del piano Washington avrà indietro i soldi entro la fine del 2014. Quindi chi darà un po' un ruolo di garante possiamo confrontarlo a quello che Edward Whitaker, che è un ex manager dell'AT&T, sta svolgendo contemporaneamente alla General Motors rispetto appunto all'amministratore delegato che è Fritz Anderson. Anche lì c'è una divisione di ruoli abbastanza netta. Marchionne è quello che gestisce e dovrà gestire e il presidente ha un ruolo di, in sostanza, supervisione, un ruolo che nel caso per esempio di GM, nelle vicende degli ultimi mesi, ne parleremo poi anche dopo, per quanto riguarda la Opel, ruolo che è stato per Whitaker abbastanza attivo. Ecco, una battuta prima di sentire a proposito di automobili anche qual è la situazione del traffico sulle strade italiane. Nei cieli di Auburn Hills, leggo da un'agenzia, perché io non c'ero, tu invece c'eri, e sono passati anche due piccoli velivoli, protestavano appunto contro il salvataggio della Chrysler. Su uno degli striscioni, leggo dall'agenzia, si leggeva Fiat Chrysler's Bailout Bandit, salvataggio pirata. Sì, questo l'abbiamo notato anche noi, in effetti, non siamo ancora riusciti a capire chi avesse pagato questi aeroplanini. Sicuramente il salvataggio di Chrysler e di General Motors, che è costato complessivamente una cinquantina di miliardi di dollari al contribuente, non è stato accolto con il plauso unanime negli Stati Uniti, così come lo stesso vale per quanto riguarda il salvataggio ben più costoso peraltro delle banche. Quindi è chiaro che può essere una reazione ancora di questo tipo. Diciamo che toccherà a Marchionne, nel caso di Chrysler, e al manager di General Motors dimostrare appunto che i soldi del contribuente sono stati ben spesi. 30 minuti in cronaca. io devo dire una cosa, devo parlare nuovamente del mito, il mio mito. Il mio mito si chiama Sergio Marchionne. Sergio Marchionne sta facendo cose inenarrabili. Lui, l'uomo col girocollo della Coin, si presenta ovunque, sta comprando qualsiasi cosa. Adesso è all'attacco della Opel, è stato già visto in Germania. Quest'uomo gira ovviamente con i suoi assistenti, Gaspare e Baldassar. Questo era un piccolo frammento, l'avete ovviamente riconosciuto, di Fiorello Show. Era il 9 maggio 2009 su Sky. In quel momento, tra i molti, immagino, dossier appunto di Marchionne, c'era anche la Opel. Quindi ritorniamo noi a parlare di questa diciamo ricostruzione anche del sistema automobilistico internazionale, naturalmente di Fiat e Chrysler in primo piano, con Andrea Malan, che lo ricordo lo raggiungiamo a Auburn Hills, cioè negli Stati Uniti, nel Michigan, dove c'è appunto la sede della casa automobilistica americana. Allora, intanto, Andrea, una battuta su quello che ci ricordava Fiorello. Ad un certo punto, in questo grande in queste grandi manovre, c'era anche Opel. Certo, Opel è stata per alcuni mesi uno dei due obiettivi appunto della Fiat. Il piano di Marchionne era come dire, non dissimile da quello che sta mettendo in atto con Chrysler, cioè arrivare a una integrazione spinta di piattaforme e di produzione. Nel caso della Opel, il caso della Opel sarebbe stato diverso, nel senso che, essendo Opel e Fiat più sovrapposte come tipo di automobili, come certo più simili anche nella cultura. Nella cultura e anche come presenza geografica, perché sono tutte e due concorrenti forti sul mercato europeo, sarebbe stata un'unione diciamo più efficiente, tra virgolette, per come la vedrebbe un economista, ma anche più dolorosa sul piano sociale, avrebbe comportato maggiori chiusure di stabilimenti di quante non siano necessarie con la Chrysler. Basta vedere in questi giorni cosa sta succedendo con la Opel, che saltata la vendita alla Magna da parte di General Motors, verrà comunque ristrutturata da parte della casa madre GM e dovrà subire tagli rilevanti all'organico. Si parla di circa 10.000 posti di lavoro in meno. Già, perché nel frattempo appunto GM fa dietro front sulla vendita di Opel, il governo tedesco si infuria, definisce inaccettabile la decisione americana, ma diciamo questa è un'altra storia su cui poi torneremo. In quell'occasione, appunto qualche mese fa, Opel era invece all'interno di un percorso che chissà, perché poi nelle industrie, come no, nelle attività non necessariamente i capitoli chiusi non vengono riaperti. Ma torniamo allora ai nostri protagonisti, Fiat e Chrysler. Ci hai spiegato, anche per contrasto, adesso parlando di Opel, come Fiat e Chrysler possano essere, come dire, reciprocamente utili l'una all'altra, in termini proprio di piattaforme automobilistiche. Perché? Perché sono due aziende complementari, a parte la presenza geografica. Chrysler è forte negli Stati Uniti e assente all'estero, Fiat fortissima in Europa e in Brasile e con qualche altra presenza internazionale. C'è una complementarità di prodotto. Chrysler produce soprattutto berline medio-grandi, SUV, quelli che qui chiamano truck, cioè dei furgoni scoperti, e i monovolume, che sono stati praticamente inventati dalla Chrysler all'inizio degli anni Ottanta. Fiat, come sappiamo, è molto forte soprattutto nelle berline e comunque in generale nelle auto piccole, quelli che in Europa si chiamano segmenti A e B, quello della Panda, della Punto, diciamo arriva fino alla Bravo, ma ha una presenza abbastanza limitata nelle parti più alte del mercato. Questa complementarità di prodotto verrà sfruttata da Marchionne per generare una integrazione. L'integrazione funzionerà così, è stato annunciato appunto in questi giorni. Chrysler progetterà e produrrà negli Stati Uniti praticamente tutte o quasi tutte appunto le auto di gamma alta, quindi dal segmento cosiddetto D in poi. Per fare un esempio preciso e concreto, la prossima versione dell'Alfa 159 dovrebbe essere progettata e prodotta negli Stati Uniti, il che attualmente, tra l'altro, lo sappiamo, garantisce un concreto risparmio sui costi grazie al fatto che il dollaro vale molto poco rispetto all'euro, quindi è probabile che una produzione qui negli Stati Uniti garantisca margini di profitto maggiori. Non solo, la futura Alfa 159, così come altri prodotti appunto di gamma alta del gruppo Fiat, saranno prodotti su una piattaforma comune con modelli che la Chrysler poi venderà con i suoi marchi Chrysler e Dodge e magari anche Jeep sul mercato americano. Quindi ci sarà un utilizzo di una singola piattaforma per una serie di modelli con un ulteriore risparmio di costi. Un aspetto interessante è quello che è stato annunciato per quanto riguarda la Lancia. La Lancia e la Chrysler si avviano a una maggiore integrazione con uno scambio di modelli, anche in questo caso, quindi Lancia venderà in Europa con marchio Lancia modelli della Chrysler pensati e prodotti qui, ovviamente adattati credo al mercato europeo. Quanto vale in tutto questo discorso l'endorsement di Obama? Nel senso, quanto vale l'impegno che si è assunto per diciamo un'automobile più verde e naturalmente l'impegno dei contribuenti? Beh, l'impegno è decisivo, come diciamo, ha permesso l'intera operazione. Fiat dovrebbe fornire a Chrysler anche motori più efficienti, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma è uno dei punti chiave dell'accordo, fornire anche auto più piccole, la 500 stessa che esordirà ai primi del 2011 sul mercato americano, quindi dovrebbe permettere a Chrysler di coprire queste parti del mercato. Nell'ipotesi che il prezzo della benzina torni a salire, attualmente il prezzo della benzina dopo l'impennata del 2008 è molto sceso qui e quindi diciamo è venuto un po' a mancare un fattore che avrebbe molto stimolato la vendita di macchine più piccole. Bisogna vedere come andrà col petrolio e come tutti sappiamo la cosa è molto poco prevedibile. Ancora una questione, orgoglio e pregiudizio si potrebbe dire. L'orgoglio è sicuramente il ruolo dell'azienda italiana in America, il pregiudizio, ammesso che sia tale, la preoccupazione in termini di posti di lavoro italiani. Certamente, sappiamo che i sindacati italiani sono abbastanza preoccupati per il fatto che gli stabilimenti nel nostro paese siano piuttosto scarichi, perché alcuni dei modelli, per esempio, di maggior successo in questi anni della Fiat, come la 500 o la Panda, vengono già prodotti all'estero, e cioè in Polonia. Sicuramente l'ipotesi di produrre alcune delle auto grandi negli Stati Uniti getta un po' un'ombra sul futuro degli stabilimenti italiani. Credo che il management Fiat incontrerà il governo e i sindacati nei prossimi mesi per spiegare qual è la visione sul futuro degli stabilimenti. Come al solito in questi casi la scommessa è sul fatto che comunque una crescita di entrambi i gruppi possa permettere di assorbire con le maggiori vendite e eventuali trasferimenti di produzione, mantenendo quindi impegnati anche gli stabilimenti italiani. In chiusura, il sogno dell'automobile nel secolo scorso è stato quello della meccanizzazione, ma anche quello dell'immagine, e l'immagine sicuramente è un punto su cui Chrysler deve lavorare parecchio. Io ti amo e tu mi appartieni. No, nessuno appartiene a un altro. Questo lo dici tu. Non permetterò a nessuno di mettermi in gabbia. Non voglio metterti in gabbia, io voglio amarti. È la stessa cosa. Ecco, non so se questo può essere in qualche modo un dialogo surreale tra Chrysler e Fiat. Di sicuro è colazione da Tiffany, e colazione da Tiffany, in particolare Audrey Hepburn, naturalmente, è l'immagine che si vuole dare Chrysler. Certo, il ruolo che Carla Bruni ha avuto nel marketing Lancia degli ultimi anni verrà assunto qui da Audrey Hepburn, un personaggio sicuramente perfettamente in linea con lo stesso tipo di stile ma trasferito negli Stati Uniti, quindi è una scommessa anche qui. Sicuramente nei prossimi anni il marketing sarà uno dei punti su cui il management di Fiat e Chrysler vorrà investire per risanare un po' un'immagine di un marchio come quello Chrysler, che era un po' sbiadita, e questa è sicuramente una delle possibilità più stuzzicanti, diciamo. Vedremo se avrà successo, come sicuramente in parte l'ho avuto con Lancia. Grazie ad Andrea Malan per essere stato con noi, a Fabio Cantadori in regia. Non mi rimane che ricordare radio24.it per sentire e risentire questo programma e augurarvi un ottimo fine settimana a tutti.